Vabbè, Antonio sono. Sì, Natalino sogno. E Giorgio Cucci, Natalino. Cava cava. E allora, sto bene? Come? Tutto bene, Natalino. Sì, tutto bene, quel che finisce bene. Oh, signore. Tutto bene, sì, tu? Ma ho visto che stamattina mi si sono sgonfiati, il piede mi si è sgonfiato. Boh, adesso vediamo come procede. No, dai, non cazzo, quel piede gonfio come una zampogna, il piede sinistro, dimmi tu. E cosa l'hai fatto? Nulla, non ho fatto niente, si è sgonfiato. Stamattina sono andato a fare una commissione e sono riuscito a mettermi la scarpa, però non si è gonfiato quando me l'ho tolta, non si è gonfiato come una zampogna, diciamo così. Poi un po' di acqua salata dovresti, come si dice. Ehi, cazzo, ero sempre con l'acqua fredda, è salata, però mi si gonfiava ugualmente. Cappa. Magari la fate rumare, li fate bene. Vuol dire che c'hai i valori a posto, forse? Non lo so. C'è qualcosa nella circolazione, capito? Però purtroppo sto già prendendo troppe medicine. E non me ne ordinano, io penso, altre medicine, capito? Cappa. Un bel casino a Natalia. Ma piano piano già. Già ci si riesce. E mi era successo e poi mi era passato. Un'altra volta mi era successo. Però si gonfiavano tutti e due i piedi. Questa volta uno solo, il sinistro. Tu ne comprendi? Ma cosa vuoi che ti dica? Vabbè, dai. E tu al lavoro sì. E io, a che ci vedi? No, a Sinotta. Io bene, sto arrivando lì. Sì, no, per qua già va bene. Non male. Dai, per essere con pochi watt va benissimo. Sì, 4 watt, c'ho quell'apparecchio lì, ho malorato, e cosa vuoi fare? Purtroppo sono diventato povero. Allora, quindi non sono più giunti, no, a romperti di cattere. No, ma quello gliel'aveva aggiustata la TV a quel signore vecchio. Gli ho aggiustato l'antenna e non lo disturbo più. Però ho preferito vendermi tutto perché non lo avevano messo nel mirino, dai. Mi è fatto davvero piacere. Siccome sto facendo quel corso lì, non voglio che niente mi disturbi, capito? Vabbè, non c'è problema. Vuol dire, quando sarò in regola mi ricomprerò tutto. E cosa vuoi che ti dica? Poi possono venire quanto vogliono, non ti fanno più niente, dopo che... Lo so. Non devi disturbare ugualmente, però non ti possono dire niente se hai apparecchi radioamatoriali, una volta che hai la patente sei in regola. Cappa, ma appunto, cosa cazzo ti fattene? Guardati tu lì, un safagotto, cazzo via. L'hai visto? Non so se l'hai visto su Facebook, l'hanno tolto adesso. Cazzo chi te l'ha cotto, cazzo di cavanata l'ha cotto, mamma mia. E a chi l'ha tirata la cavanata? A chi c'è bussato? C'è una mezza risa. Adesso è la veloce però, Non ho capito, a chi l'hanno tirata la scavanata? A questo che era seduto nel banco. L'ha detto. Tu a me mi vai, un soffagotto, l'ha detto. Da voi chi tu se ne la miseria? De pala cutto un cazzo che sei cavalata. Cazzo! L'hanno separato l'anno. C'ho il video, c'ho. Cazzo di lusso, il mio per appoggio. Oh, gli anni ha dato ne succede di una. Che ci ha fatto a chi c'è mezzo un carotto. Se trova giovanotto qui con le voci, cazzo, ce l'ha arruinato qui, insomma, anziano. Avrebbe picchiato forte, ma forte per me. Te credo. Io te l'appoggio. Poi vabbè, so, Sì, vabbè, come va? Ah, te ne vuoi. A maletta stai arrivando. Ma cosa vuoi appoggiare tu? Cosa vuoi appoggiare? Te la vuoi appoggiare, Miantù, quell'Alessio? A me. E così ha detto, te l'appoggio, te l'appoggio. Oh, sì. Ah, c'è le muraglione lì vicino a me. Cos'è successo? Oh, per lì vicino c'è le muraglione dove sta lavorando lui. Dove sta lavorando Antoni? Ah, voglio dire, lui è articolato, di tutto c'è lì. Come era Reghizio? Antone, ma sento un disturbo, sento. Boh, io non sento niente, la verità. Nessun disturbo, la verità. Niente, mi non di nulla. Ma ieri notte, guarda, quello che è successo ieri notte era allucinante, era. Anche mai buttata via quanto c'era. Cosa è successo ieri? Il cazzo, non ti sei accorto ieri notte quello che è successo in via Milano? No! Cazzo, non è tornato. Poi a mezz'ora e tre, a 3:05. Ah, sì, ma sono a casa ero, non è che non ero qua io. Dite sul tamburotto. Quanto è non ho visto che era ancora in piedi? Ma è bello che ho fatto sempre la stessa... Mi sono sempre accorto. Fate sempre dalla stessa zona. Fa sempre sono andato veloce. Dopodiché sale su e poi passa qua a Carbonazzi. Fatto sempre quel giro, fatto. È strano, eh. Ah, i punti di guarda, muro. Pure i punti, sì. Dalle 3 fino alle 5 del mattino io ero per... Non me l'ha facciato, come si chiama? Cioè, mi sembra Sabatino di Cale. Verso le 4. E si è spaventato. Allora, a pausa ho chiuso tutto, Poi ho visto... questo fulmine orizzontale lungo, se è stato almeno lungo, quanto posso dire, quasi un chilometro e mezzo. Ho visto, ho staccato tutto, ma giù di là tante, qua già era tutto staccato, meno male. Eia. Allora poi mi sono stato io, 2:30 sono state, fino alle 5 del mattino, ma ogni passata, prima è cominciato il vento normale, no? Maestrale, lo sopporti. No. Poi però poi è cominciato a rinforzare, dopodiché è stato appena affacciato, come si chiama, lì si è spaventato il cane, mi sono alzato, ho chiuso tutto, ho staccato cavi, tutto, questo fulmine, questo tuono, ho detto, no, meglio staccare tutto, non sai che cazzo ci passo io. Era un ciclone, mi bavo, tornato di notte, ma l'antenna sembra che sia rimasta in piedi, non gli ha fatto niente. La verità, io non ci ho neanche guardato l'antenna stamattina, quindi figurati tu. Penso che l'avrei gestito, se fosse stato senza piede sarebbe stato in terra. Non lo so. Ci ha pagato, non lo so già Antone. Casino è cazzo quando fa queste cose così forti. Ma spiegami una cosa, ma con il capo grosso cambiano anche le stazionarie? Beh, certo, l'antenna è 50 ohm, il capo 50, secondo te, quindi c'hai stazionare zero. Se invece il capo di mettere di 58 o 52, qualcosa ti devi aspettare. No, allora, quando io usavo l'altro era a zero le stazionarie. Cioè a 1:1 era, quando io alzo su di potenza qua, sembra che l'antenna dia più potenza, sembra. Secondo te, quando tu prendi un cavo da 1 e gli metti da 2, secondo te cosa succede? Se c'è un assorbimento, ottimali di potenza e quindi automaticamente scalda di meno il cavo. Lo sai che il cavo quando fine scalda e in pratica la potenza la dissipa in calore, invece in questo caso quando c'è il cavo grosso la potenza non la dissipa più in calore ma te la manda direttamente in antenna. Ecco il perché c'è questa differenza. Ascolta, ma io ho lasciato un pezzo di RG58 attaccato come settone per il rosmetro. Non li fa niente. In teoria è meglio che usi tutto assieme, tutto il RG113. Devo comprare il PL, devo fare, devo metterlo. Ce n'è un pezzo. Quindi ti chiedo intanto questa mano, io ho pagato 2,50 io quelli che ti ho dato, da Fusaro. Mi dice che c'erano quelli, erano altri, quelli marroncini. Cioè, avevo trovato uno marrone e uno bianco. Quindi, figurati tu. Quindi, devi trovare, avere la fortuna di trovare proprio lì. Il gioco è giusto che c'abbia quel tipo di piede marrone. Fa la ferratura e si apposta, basta che ci abbia la ferratura, perché a volte capita magari con quello che la ferratura non ce l'hanno, devi saldare nel fianco avanti alla palina. Sto leggendo una cosa. Ok, dici uia. Adesso è tutto RG213, ha cambiato qualcosa? Se 9,20 con picchi positivi, da 9,10 a 9,20. Ma ha cambiato? Aspetta che non è abitato su qui, che cazzo? Ecco qua. Adesso ho abitato il PL. Allora, cioè poco fa, e infatti vedo che anche sale molto di più il coso. 29,25. Poco fa ero di meno. Non avevi abitato il piede secondo te. Oh. Ecco qua. Adesso è tutto RG58. Cioè, ma tutto RG8 adesso. Adesso già va bene. E me con gli ascolti. Io sono quello quasi 20 watt di uscita solo, non di più. Figurati. Aspetta. Un po' 50 AM. Sì, cazzo, non ve ne è più. Hai visto? Non metto mai 50 perché va bene così, se la notte. Dopo le 10 di notte mi diverto, cazzo, che c'è la Germania, poi comincia il coso. Faccio bene che è come se fosse parlare al telefono, cazzo. Lo so, adesso cambio, dai, metto, torno a questo, perché se no devo tirare, non ci arriva tanto bene. Aspetta un attimo. Ehi, avanti la palina. Non vi stavo seguendo, stavo leggendo una situazione qua. Antone, vi stavo ascoltando, ma non ho seguito perché ero intento leggendo una cosa qui interessante. Natalino, guarda a vedere se ha cambiato, perché ho messo tutto diretto. Ma qua sta arrivando a 9,10. Prima era 9,5, vero? Hola. Sì. Adesso provare a metterlo come era prima. Come fai se 9,10 a te, che tu sei più vicino, quando a me mi arriva da 9,20 a 9,30 quasi. Ma io sono in deposito. C'è ragione. Scusa, io ti ho fatto che ti prendi in deposito. Ma va bene, è un buon segnale a me. Se sono lui di altri 6 metri, tu sei a posto lì. Che appagato, adesso provo a attaccare nel rosmetro, vai, guarda il cielo. Se avrei avuto, guarda, il colpo di fortuna di vincere subito alla Superalotto, mi sarei comprato la massata, lo vedo prima, cazzo. l'avrei creppato la talina, cazzo. A tutti avrei creppato lei. Sei stato il numero uno, sei stato. Sei partito sicuramente con Nuvolo, l'altra di cosa, di Olbia. Ah, fanculo, cazzo, che mamma ci avrebbe venduto quell'appartamento qua. Cos'è l'appartamento di Rizzito? Allora, te lo dico di Natalica, a lì. Parlavo tutti i giorni, cazzo, con gli spagnoli, cazzo, in chiaro, cazzo, no. Con le Canarie parlavo tutti i giorni, cazzo, come se fosse una telefonata, cazzo. Poi c'era la... Coso, Metalghero, Bosa, Bosa Marina, poi Tempio, te lo ricordi con l'antenna del 73 FM, se metti il palo, arrivava a Tempio, cazzo, fondo scala arrivava in FM. Oh, va, mi senti? Sembra lo stesso il segnale, più o meno. Sempre uguale. Vabbè. Ti andrà bene. Lì c'è un bel linearetto grosso, un'antenna alta, e dai, come pompi anche lì sopra. La può cambiare. Apre e va giù di nato, può prenderne una. Ah, va bene, ok. Cioè, sollevi 8 metri di palo e tu sei a posto, dimmi, lo sai? Fai vedere la savana. Ma Antone, non mi piace assai che ci arrivo. Devo mettere un'altra di antenna. Qualcosa di leggero e forte. Ah, ma la pena non riesce a principare tu di spostarsi. Da lì si sposta lì per il freddo. Tanto ci sono i garage che sono tutti vuoti, ci sono i... hai capito? Fai il deposito di lì, hanno fatto le pezzate il cavo da dietro, fai sopra il tetto, si piace una bella manto, ma la sera lì sopra dove cisci. E come ci parli tu, parli tranquillamente con la macchina portata nel caso. Vabbè, ma lo dobbiamo fare qua, perché non è che puoi mettere le bombole dove ti pare ti piacciono, ci vogliono i terreni adatti. E non ti ho aiuto un tipo in via di Zed, tutto vuoto, ormai non c'è quasi nessuno, tutti i mesi sono vuoti, figurati tu. Vabbè che mettere le bombole sotto la palazzina non è che sia tanto bello. Beh, come i budini, i budini 2-2, boh, massimo. Cioè, se tratta di cocchine, cioè, no? Ci vogliono i pozzi alati, ma qua ci sta bene. Qua adesso convinto ci rimetto un'antenna più performante e so cavolo. Vabbè, quello sì. Sopra la villetta. E lo va bene qua. Ma se è a base di terra, cos'è quello? Ehi, andava. Ma per il problema già va bene lo stesso, io vedo che esco e mi faccio sentire anche da qua. Adesso lo sai come hai fatto quello, che a un certo punto ti piace un minimo un piccolo taliccio da 10 metri, una bella antenna sopra e stai andando. Come detto, te lo metti in moto carrozzella l'antennino, come faceva con i viaturati, così da collineare, è stato un ecco, è il BV 2001. Sì, ma adesso devi essere attento. E li hanno già preso, non ti preoccupare, è stato imbecille. Io ho detto, guarda, se non dici a me, dammi i tuoi dati, ci vado io e ti faccio un po' di sequestro. E tu però l'apparecchio era meglio, ho detto. No, non me ne frega niente, mi ha risposto. Hai capito? È peccato che io non ho più visto nessuno, se no il fatto di domandare io avrei sequestrato io con l'apparecchio lì, sotto un ecco, con BV 2001, con la transisto. Solo chi se va via, Edo? Io. Cazzo, c'è suonato voce. Cazzo, devo dire per un via le balle, io. Allora, c'è una manta qua, amici, aveva. Una manta qua 5. Sta succedendo per quello. Adesso c'hanno questa turbo modificata, sicuramente. Sì, c'è una turbo che è più corta, è quella frequenza lì. Poi mi sembra usano i 43, se non mi ricordo male. Ma fatto confidenza c'hai con quella che non ti parli più? O quella che andava a casa di tuo fratello? Perché devo chiedere una cosa di lavoro, dai. Come ti si chiama? Con Angela? Sì. C'è il cuore? No, aspetta, non c'è il cuore di quella, c'è l'altra, c'è l'altra. Se vuoi, non c'è problema. Cosa vuoi comprare con lei? Devo chiedere una cosa del lavoro, devo chiederle. Che io non me la ricordo bene, capito? Il lavoro di karaoke, capito? Ma c'è la carica, cazzo. C'è la carica e c'è in quanti poi c'è il circolo, c'è le casse, c'è il mixer e c'è altro. Tu ci ascolti, ti presenti, io mi chiamo Toto, faccio serata di karaoke. Io mi dice, mi organizzo per fargli avere cosa ti posso dire 100 persone, cose del genere, dopodiché i guardi ce lo dividiamo in due, cioè a me mi dà tutto, poi si lascia per l'altro a un certo punto, quello che c'è giù a carica, fai lì, non ti costa niente, no? Ah, ma non paga la serata della pupiglia, eventualmente in culo, non mi interessa a me di quello che vuole fare lui. Basta che gli faccio la serata, ricordo, mi paga quanto gli ho chiesto. Andate a ammazza. Se parlo con la ricarica, scendi giù, siccome c'è il computer già con le canzoni già pronte, già. Hai capito? Tu ti porti il computer tuo al limite, ti agganci il coso tuo, ti fai la tua serata, tanto per dire, vi mettete d'accordo, ve lo dividete in due, non è che sia questo granché, lui c'ha gli incassi per il bere e tu c'ha gli incassi per la serata, il discorso è quello lì, non costa niente, lì ha la carica. Secondo me è una cosa giusta. Sì, Antonio, a me la cosa mi basta, perché di cose non mi fido di nessuno. Mi basta mandare musica e alzare il volume. Quando alzo il volume dico, fa una cosa, fate una cagata, gli dico, dove c'è un gatto d'impianto? Perché già è successo un amico mio. Guardatelo io, boom boom boom, mamma, va a provare, va a alzare il volume. Gesù Cristo mio! Cazzo, no, proprio rauch, cioè proprio non. Le casse non tenevano, no, non servivano un cazzo. Roba d'amplificatore! Gianni Regalli. Un amico mio ne ha due amplificatori, c'ha un impianto che l'ha messo a uno e io con le finestre chiuse sentivo la musica. Ma Chiara, guarda, c'ha un kilowatt. Però, cazzo, tu devi vedere che musica. Un kilowatt, ora ti intendi. 1000 watt avrà. Un kilowatt, 1000 watt. Sono uno da 200 e uno da 800. E sono 1000 watt. L'ha messo a uno, fa una cosa, non lo puoi alzare di più. No, non è una coincidenza, lo vedo. Perché qua, se no, ne è uscita una addirittura con i capelli dritti. Però la musica dovevi vedere come si sentiva bene, cara. Ho dovuto aprire la finestra io per sentirla bene proprio. Perché la sentivo anche con la finestra chiusa, c'ho doppi vetri io. Guarda, musica così bella. Non preoccuparti. Ma si sente veramente bene, senza nessuna distorsione, nulla. Ma guarda, con un impianto serio deve essere così. Cioè, un impianto serio deve stare così. Se io ti faccio sentire il mio DB, anche l'alto che ho, cioè, perché ho le casse sia alto che DB, e poi ho due tretti audio che non vanno male lo stesso. Cioè, sono serie, cioè, vanno veramente bene, vanno. Non si intende rana, no, ma io sono andato in Inghilterra, non è un amplificatore, no. È proprio l'impianto che fa di gaga, fa di a gaga in chibi. Non dei coni che non c'erano un cazzo, roba cinese. Oh, allora per forza non serviva un cazzo. Questo qui ha addirittura anche le casse si ha costruito. Questo è un tecnico però, ma tu devi sentire la musica, come si sente. E l'ha messo appena appena a uno, così. Ma anche se lo metti al massimo, non distorce ugualmente. Solo che ci puoi fare un concerto con quello. Ma guarda, io ti metto le mie, le faccio andare. Ma guarda, allora, innanzitutto le casse così attive, la gente non sa un cazzo. Non devono mai andare al massimo, il mix non deve superare più di 10 dB, c'è tutta quanta una scaletta. Però io ti faccio vedere che però io a metà volume, anche più su, no, non se ne intende rana, pompano e boh. E io ho dovuto mettere anche basse perché pompavano forte le mie. E questo che ti sto dicendo io, questo è un tecnico però, è una persona che ne sa un bel. E ti sto dicendo che non ho sentito mai la musica così bene come l'ha sentita. Proprio alta fedeltà, senti gli strumenti in una maniera, guarda, tu la devi sentire anche tu. Tu che te ne intendi di queste cose? Tu devi sentire come questa musica di vero è. Poi molti sono fissati per fare il karaoke. Non devi pompare a cantoni vedi. Deve esserci il tanto giusto di potenza e basta. Anche se no, cioè, basta poco mica dentro il locale, sai come rendono. Cioè non bisogna pompare chissà canto, cioè Costantino ne idrata una di Gasciami, ne usa una da 1300 watt, ma non la mette a manetta, la mette nel momento giusto, perché tanto non occorre. E quando tu li metti nello stativi, sai cosa sono gli stativi? Chi si ghiacciano nei piedi stalli, la gente, fondamentalmente. Se tu li metti lì, a una resa micidiale, li metti all'altezza giusta, non c'è bisogno, vanno bene anche le altre più piccole che ho, le altre che ho, senza piazza dei DB, vanno benissimo per un locale, che non è tanto grande, capito? E rende forte, si intende un bel. Sì, già lo so, già. Bisogna mettere il volume giusto che ci possa stare dentro e che si senta chiara la musica. Già lo so. Il Duburu va due amplificatori da 1 kW, però cazzo, uno è da 200 e l'altro è da 800, in tutto sono 2 kW. Poi c'ha queste schede aereo, già hanno attaccato poco da Trecuri, fino a Rigassi si è costruito. Ti sto dicendo, come senti quella musica, non ce n'è impianto da comprare che funzioni così, Lascia perdere, Natali, non tocchiamo quei tassi. Per impianti buoni bisogna, e commenti se bisogna impianti buoni. Cazzo, cominciamo già a cavarne un bel poco di dinammi, cioè per impianti buoni. Lascia, non tocchiamo questi tasti, che io ti faccio sentire un impianto a paura, che suonano veramente bene. Secondo me come suona, a mio parere, il sistema Ray, cioè, da paura. Suonano bene, pompano forte anche. E il suono si sente veramente il suono. Lasciamo perdere, non tocchiamo certi tasti, che già bisogna impianti buoni. Solo che costa una vacca di là, parliamo da 20.000 euro in su. Sì, già lo so, che me l'ha detto a me questo amico mio. Però ti sto dicendo che non rendono come il suo, che il suo è stato costruito apposta. Non gli conviene a una ditta, anche a farlo pagare 20.000 euro, a fare un impianto come ce l'ha questo qui, che sto dicendo io. altro che 20.000 te lo devi far pagare. Se ti sono presenti, che ti viene ai nocchi, ti lo posso intendere. Ce lo faccio, perché gli dico di metterlo a uno e tu senti questa musica che è qua. T'assusti di quanto si sente bene. Capito, no, non è conveniente costruire un impianto così per le ditte. Ci sono due tipi di impianti, uno è caricato a tromba e l'altro è il sistema Line Ray, che penso che sia nel migliore, come a livello di concerti, di roba così. E quello ti posso assicurare, quelle spingono parecchio. Che si trova caricata a tromba è un sistema che pompa forte, ti dà proprio quel coso, quella spinta addosso, capito? È un po' particolare, come era una volta. Già lo so, io le ho viste le casse, ti sto dicendo, mi sono spaventato. E lui le mette piano piano, perché sennò qua già uno disturba, disturba, perché cazzo c'è una signora che mi ci dà quelle belle liti e altri chirri, cazzo, di lui a riposare, ma dimmi tu. Certo, pure io quando mango Romeo alzo il volume a casa, cazzo, intendi tutto quanto un rione. Ma qua non ne puoi attaccare di nulla, qua c'è gente cattiva, ci mettono molto a denunciarti, te lo sto dicendo, la minima cosa che fai, ti denunciano subito. Come ti ha detto Guido, un safarotto mi vattene. Non è così? Sappiato un po' all'inizio, ma poi io... Guarda che io mi ho dovuto vendere tutto, perché se venivano attorno a controllarmi e mi trovavano cose che non dovevo avere, erano cazzi da cagare, grandi come montagne però. Io infatti, perché sono in queste condizioni? Perché so che la gente è cattiva qua. Oh, che paura. Tu non hai paura. A me la prima volta che sono giunti mi hanno esecutato, intanto lo aracchino mi hanno esecutato, perché non era marcato c'è. Mi hanno poi fatto via uno strumento che costava 150 euro. Mi volevano portare via il microfono e l'alimentatore. Praticamente tutto quello che c'era attaccato me lo volevano portare via. Però l'alimentatore e il microfono erano marcati CE, non me l'hanno educati. Però, cazzo, mi sono dovuto pagare un verbale e mi hanno sequestrato il baracchino e quello strumento là che ti ho detto. Non è come dici tu a te. Io non puoi entrare a casa, non ti preoccupare Natale. Mancare luce in innesciare. Entrano, anzi ti dico di più, prima entra la polizia e poi entrano loro, perché sono venuti con la polizia, non hai capito? E va entra fai puzza, chi venne in cui mandato, quando venini e fa fa danno. Ma poi la pepera non è che pone i parobi buoni ne mancano, perché non è così, no, Natale. Aspetta un attimo, c'ho il cutici con mia moglie, me lo dici su. Avanti, tanto che c'avevo un cutici con la 50. Ehi, ho detto che gli strumenti non te li potevano toccare loro. Che cosa fa uno strumento? Attaccata l'antenna. Cazzo, una volta che hai attaccato l'antenna, te lo sequestrano. tutto quello che trovano attaccato all'antenna, che non è in regola, te lo sequestrano. Noi come ti dici tu, Antu, cazzo? È successo a me, ho tipo sul rigiro verbale. Io ce l'ho il verbale, mica lo faccio leggere. Ne ha fatto uno loro e uno la polizia. Sì, però lo strumento cosa cazzo poteva fare? Un misuratore, non è una cosa che ci tocca, capito? Ma cosa stiamo dicendo? Cazzo, non va bene, cazzo, mi ripigli gli strumenti, tu. Io posso capire, un apparecchio non omologato, benissimo, hai ragione. Non ti posso di nulla, hai ragione. Ma lo strumento cosa ti fa? Hanno un po' che in mezzo a tante cose, comunque c'è l'esagerazione, Natali. Non è come ti dice niente. Loro prendono, siccome lo strumento era della Daiwa e non era marcato CE, me l'hanno sequestrato, le cose che non sono marcate CE te le sequestrano, c'è poco da dire, c'è la legge, non è a dire cazzo, era uscita da poco la legge quando sono venuti, io non ne sapevo neanche, l'apparecchio che mi hanno sequestrato era omologato, solo che non era marcato CE. C'era la targhetta di omologazione, era grande quanto un pacchetto di sigarette, era una scatola di luce della scarpa, cazzo, un apparecchio del cazzo, eppure mi danno sequestrato, perché non era marcato CE. Non insistere, perché come ti sto dicendo io, se loro vedono che non è in regola l'apparecchio, lo strumento, anche l'alimentatore mi stavano portando via, ma di là a te, meno male che era marcato CE, se no me l'avrebbero portato via. E mai ho marchiato c'è, però mi ha capito bene le cose. Io poi uno si può comprare le etichette, mi barghi di vendere, Robone, che cazzo mi puoi fare tu a me? Marchiato c'è, non ti muove nulla, mi barghi vendere le etichettine, mi ha già. Ma se non hai il certificato che ti rilascia la fabbrica che te l'ha venduto, del tagliandino adesivo, non te ne fai un cavolo, loro vogliono vedere il certificato di omologazione, c'è. Si chiama certificato di conformità, per dirlo a temi, certificato di conformità si chiama, e se non c'è quello, loro come vedono marcato c'è, vogliono quel certificato, se non hai quel certificato te la sequestrano la cosa, ragabigli tu. Cazzo. Poi loro hanno la tabella di quello che è vendibile oppure no. Loro lo sanno già che apparecchio è che non va bene. A chi vanno tutti i Cristo, non hai compreso. Se va bene vinta la concessione mia in mano, va bene. Quando sono giunti va bene tutti i fogli in mano. Certo, io. Quel di sequestro mi sa che si può fare, mi dà la roba. Il di sequestro, boh, non lo so, posso chiedere. Qua, quello strumento, non tanto il baracchino, ma lo strumento era bello veramente. Cazzo, epoca era maduro, cazzo. Con gli aghi incrociati era mio, un Daiwa di quelli da 150 euro. Guarda, vedere Natale, informati che si può fare di sequestro. Bisogna informarsi veramente. Se si può di sequestrare non mi sembra vero qua. Ma se c'è una cartonella poco fa, dopo un po' di tempo puoi andare a sequestrarla, la roba. Informati, dovrebbero ancora essere. E per forza ce l'hanno loro, se no chi ce l'ha? Più che loro non ce l'hanno quella roba. Se mi ho pagato anche il verbale, cazzo. Ma vediamo un po', se si può disequestrare quell'apparecchio mi farebbe comodo, quello strumento, da. Informarsi. Infatti, perché lasciarlo a loro? Cazzo, io l'ho pagato con i soldi, l'ho pagato, no, cazzo, io i soldi non li rubo. Ma roba, come si dice? Io la posso prendere, cioè la più pagata. Bisogna capire come bisogna fare, dice questo, quello ciò che si può fare. E chi se ne ammazza. E adesso chiedo se si può disequestrare quella roba. E così vediamo un po'. Ma penso che non me ne facciano di sequestrare, no? Perché loro la volta che sono venuti qua non hanno guadagnato, mia, hai capito? Ci hanno perso anzi. Anche tu la vuoi pagare per contravvenzione, un ragazzo vetra. Aspetta, Natali, puoi sequestrare quello che vuoi. Ma tu sei per me cosa te lo... hai capito? Guarda, l'avvocato fa il foglio di sequestro, prendi il foglio, cioè la copia di sequestro nella circo elettronica, non la circo elettronica, l'avvocato si chiama, aspetta, quell'associazione nata a cura dei CB, adesso non me lo ricordo più. Già mi hai capito comunque, quella che c'era prima, lì c'è il foglio di sequestro, c'è. Quindi non fai altro che fare la domanda come ho fatto Mario Manse. Mario Manse solo una parete che l'avevano sequestrato, quello che andava 11.45, tutti gli altri erano tutti tornati, perché ha vinto la causa con l'avvocato. Chi cazzo, si tocca fare la causa con l'avvocato, ti brucia sacca e sari, non se lo fare gli apparecchi che mi hanno sequestrato a me. Cazzo, c'era solo lo strumento che costava 150 euro, però il baracchino lo sagazzovari, niente. Cazzo, se vado dall'avvocato, chissà quanto vuole l'avvocato per farci il sequestro. Non ne vale la pena, capito? Se ne compare che dire, se ne compare che vuole pure tirare pure l'avvocato. E mi pare ovvio, capito? C'è l'inghippo, ciao Giù, buonasera. Ciao, ciao, continuate. Ci sentiamo dopo più tardi, ciao. Cosa ti dica la tagli allora? Ho fatto un uovo, ragazzi, io... sai che sono sorpreso dal lavoro, perché tanto la roba sequestrata, lo sai che il lavoro è come la finanza, no? Se la prendono loro, non la usano loro, il discorso è quello. Poi vedi tu, non lo so, la roba tua l'hai pagata tu, quindi a un certo punto... vedi cosa vuoi fare, allora non ti posso dire, se me avevo sequestrato qualsiasi apparecchio, cosa del genere, ho fatto causa e me avevo dato dentro come avevo fatto a Mario, avevo messo dentro una busta, dice lo tenga lei, e poi fa due anni dice lo può usare, gli hanno detto, e infatti ce li ha gli apparati, ha speso mi sembra 400-500 mila lire, ma almeno aveva più di 20 apparati, c'aveva, hai capito? L'unico che aveva sequestrato era l'11.45 metri, un connesso che mi sembra 4.005, una cosa del genere, con la scheda 11.45 e basta, non ha toccato nient'altro. E vabbè, ma hai finito di ordinare dell'avvocato, gli ho messo qualche cosa io dell'avvocato, che sta attento da quello che dovevo prendere io, sei attento a roba di 800 euro, che non erano dovuti, perché già lo so io perché non erano dovuti, e pure siete attenti. 700 se ne ha tenuto l'avvocato, Puzzino Susia. Non è cosa che l'avvocato, più ladri di non venne altri, di niente. Sì, ma devi fare il foglio di sequestro prima di tutto. Tu fatti fare il foglio di sequestro e loro tirano l'apparecchio, quello che ho sequestrato. Dopodiché decideranno loro, no? Non ti costa nulla, no? L'avvocato vuole soldi, tu non hai compreso nulla. L'avvocato va a vedere solo quelli di là e boh. E io non se li vale gli apparecchi che mi hanno sequestrato, non si valgono i soldi che vuole l'avvocato, hai capito? E paghi su di buoni, pure magnappa, ma con tu mio. Vabbè, allora, cosa vuoi dire? Io tu vuoi fare così e a un certo punto l'hai vinta. Fosse stato un animatore che mi aveva sequestrato una cosa del genere, sarei andato fino in fondo, questo è poco ma sicuro. Avevo fatto il foglio di sequestro e la palica l'avevo avuta a casa, anzi, Marco l'avevo toccato, l'avevo messo davanti alla busta, perché in pratica il proprietario sei tu e non lo puoi toccare. Così ci siamo rimasti. Tutto lì. Poi è questione solo di soldi, il discorso è quello lì. Però quando andare l'ha vinta, a un certo punto gli era tra vinta e cosa devi fare? Pazienza. Magari te, allora fai la cosa, devi comprare altro e sei più tranquillo. Spendo di meno se me ne compro un altro, almeno spendo 150 euro e basta. Capitola, cos'è il discorso. Ma l'avvocato ha 350 euro a pagare la causa, non saranno, a dissequestrare un baracchino che non puoi manco utilizzare, perché non è, intanto non è marcato c'è, quindi non lo puoi utilizzare. Quindi cosa stiamo dicendo? Lo strumento non lo puoi utilizzare lo stesso perché non è marcato CE, quindi cosa li dissi questi a fare per non poterli usare? E se te li trovano attaccati all'antenna, te li tornano a sequestrare. Così fai quello che vogliono loro. Io vengo lì per dire, per la mattina da casa tua ti porto via quello che voglio io. Tanto, a un certo punto è così, non va bene per come la penso io, Natalia. Se tu fai l'istanza, non ci vengono più a romperti le balle, il discorso è quello, hai capito? Invece quando stai zitto e fanno quello che vogliono loro, a un certo punto posso vedere quando vogliono, quindi ti portano via, vuole fare come vuoi, intanto tu ti giri a un certo punto. Il discorso è quello lì. Invece con Mario Manse, come ho fatto io, sono su più venuti, una volta solo sono arrivati. Dopodiché gli hanno lasciato la busta con tutta la roba dentro, quello che c'era, apparati lavoratoriali, di tutto ci aveva a casa, non gli hanno toccato niente, nulla, è rimasto tutto lì. L'unica cosa che hanno toccato era l'apparecchio, 11-45 metri che c'aveva e basta. Non ha trovato nessun'altra cosa, perché ha fatto causa. Ma si è pagato burulina dall'avvocato. Comunque adesso ti dico un'altra cosa, qua non può entrare nessuno più, manco la polizia. Perché io concessione non ne pago più e non sono tenuto a farli entrare. Quando vengono, se dovessero venire, li chiedo subito se c'è il mandato. E con la pistola nel coso, nella cintura. Capito? Gli apro la porta, sì, mandato ne avete, noi la dura di vignando in mese di giunti, vai piaziri. Anzi camminetti, io sai che, perché c'ho il dito che mi trema, ti dico. Non hai capito? Che non è così, che qui non c'entra più nessuno. Io concessione non ne pago più e quindi non sono tenuto a farli entrare. Per entrare qua devono avere il mandato. E se non hanno il mandato non si devono anche avvicinare qua. Possono avere il mandato, però non li devi minacciare, perché allora gli dici, signori non potete entrare, non è che tu vuoi la biciora, no, non va bene, quello non va bene, perché allora rubate una fossa, non va bene quello, tu gli dici, per cortesia non entrate se non avete il mandato, quando ci avete il mandato entrate, benissimo. Se tu gli parli di armi, allora le cose cambiano totalmente, allora è diverso, non andare in isso. No, io in casa mia posso circolare armato, lo danno i Zaidu, io c'ho il porto d'armi, bello bene. E posso circolare armato in casa, hai capito? E gliela faccio pure vedere, gliela faccio. Tu avvisinati, a parte che se ci hanno mandato aspettate un attimo fuori che chiamo il mio avvocato, capito? A chi si va nel mandato ci hanno l'avvocato subito, pure se qua non ne hanno motivo, perché ho l'apparecchio omologato, qua sono in regola, c'era il marcato CE questo qui e mi si pone nel depa e mi faccia in culo, hai capito? Sì, Natalie, dopo è anche cosa. Però non puoi minacciarli, perché se tu li minacci sono cazzi due. Tu porto l'arma e finito. Allora la prendo in diversa maniera. Tu puoi dirgli quello che è, gentilmente, cosa. Allo prepotente ti ricordati che non lo devi mai fare. Perché allora lo prendono un cazzo come diversa cosa lo prendono. Puoi anche averla da retto, dentro casa, non è un problema. Però tu la minaccia non gliela puoi fare, perché se gliela fai sono cazzi tuoi. No, io non minaccio a nessuno. Io non minaccio a nessuno. Però Edino Ventra nei nobili, questo è poco ma è sicuro. Se Edino hanno il rumandato non possono entrare qua, perché noi concessione non ne paghiamo più, non siamo tenuti a farli entrare qua. Hai capito? E anche se hanno il mandato non li faccio entrare lo stesso finché non viene un avvocato. Mi chiama Miglia Gattro più caro che ve. E riposto da stare a Gadria, di lui di cui senza, li denuncio mi, perché senza un fondato motivo, allora mi pagano i babboni. No, come ne va, Felipe? Cioè, se tu sei a posto a casa, ci prego, controllate, senza far casini. Altri governi che te lo prendi, cioè, tu gli dici, avete mandato a entrare, se non avete mandato, basta, finito. Non ti attacca mai con la gente, con visti soprattutto. E che poi la prendono diversamente, la prendono. Quindi bisogna sempre stare un po' tranquilli. Già, ma la pepina se uno non ha niente da nascondere, me, va bene, io ti dico stesso, vabbè, va, già andava bene. Saluti, arrivederci. Non li faccio entrare per principio, se loro non hanno il mandato non li faccio entrare, se hanno il mandato mi chiamo prima l'avvocato in modo che li posso denunziare se mi rompino i guglioni, non ha compreso? Tu non hai capito di io di quanto sono bravo, sono anche cattivo alla stessa maniera, perché la legge la conosco anch'io e sto dicendo che sono cattivo alla stessa maniera di quanto sono bravo. Quindi non li conveni se non mi ero mandato a venire ai nuovi, perché io sono in regola, ho l'apparecchio omologato e quindi non mi buono di qui c'era proprio nulla, perché ho l'apparecchio omologato io, sono in regola, con un'incisione non ne devo avere e posso usarlo, aspetta un attimo che mi hanno suonato. Ehi, dimmi. Io secondo me avrei fatto un pezzo di ravioli a quelli, non so dove li fatti. Prego, venite a cena, vi ho invitato. Ma tu stai parlando di una persona che ne avvia un fiotto, ne avvia. È logico, cazzo, che mi conviene pagare l'avvocato, anche, cioè, e farti sequestro. Cioè, a chi non è, non si tratta di cose in 2 euro. E chi vivrà un mese di Napoli, Dani? È logico, cazzo, che conviene pagarlo, e come? Di quella persona là, cazzo. Ma se vai due cazzate che si sentono che è in culo. E infatti non ne vale la pena. Se c'hai due cazzate che non arrivano a pagare i soldi dell'avvocato, che cazzo te lo fa fare? Era quello che gli volevo dire, Antonello. Ma pagando mai roba di così 1.000 euro non abbia una cazzata, no? Ah, se c'è roba da 5.000, 6.000 euro è un altro discorso. Sì, vabbè, dipende quello là, non ti preoccupare. Ricordati la roba che si questano, la mettono all'asta, quindi a un certo punto sei andato lì a prendere e mi sei preso il nuovo palazzo, quello che... Ma roba se questo la metto all'asta, meno che lo sai che se la tengono loro, quindi a un certo punto, come è sempre successo, e poi non lo so, vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole, se non mi avrebbero sequestrato qualcosa, fate come mi avrebbero visto l'avvocata, e la roba me l'avrebbero tornata, come l'ho fatto con Mario Manser, l'ho fatto io, quel fondo lì, e sono veramente orgoglioso di averlo fatto. E Mario Manser si è ripreso dopo tutto, grazie a Dio. tramite me, quindi figurati tu. Ne va fatta la pena. Mi sembrava per prendere anche 200.000 lire dall'avvocato, ma cosa del genere. Il foglio di sequestro ha fatto, ci vuole solo il foglio di sequestro, non ci vuole nient'altro. Presentato lì in tribunale, e il tribunale cosa ti dà? La roba che ti hanno sequestrato, te la tiri tu a casa, per 6-7 mesi, quello che è, finché non ti fanno, non ti fanno proprio niente, la verità, perché il processo non te lo fanno in tribunale, te la metti tenuta tu, non è che sono delle cose già informati bene, nata lì, te lo sto dicendo per quel motivo lì. È successo così con Mario Manse, il discorso è quello. Quindi se vuoi la roba tua, non costa niente, fai il foglio di sequestro lì in tribunale e ti ritrova la roba tua. Dopodiché ci passeranno 5 anni, 7 anni, quello che è la prescrizione, e la roba ti ritorna a casa. Perché è così. Ma lo sai cosa ti dico? Non me ne affutti nulla, nudami. Si la mangiano la roba che mi hanno sequestrato, se la mangiano, tanto è poca roba, non si è. A parte che non la posso usare perché non è marcata CE, quindi non la possono neanche vendere quella roba. Capito? Se tu vai a comprarla devono avere il certificato di conformità a tutta la roba, se no non te la possono vendere. Ma io ti sto dicendo come è successo con Mario Manse, quindi. E tu lo sai quello che ho salvato io, tutto quello che ho salvato io, quindi a un certo punto te lo sto dicendo perché ci sono passato io. Ci abitavo io da Mario Manse, c'avevo il 680, non mi hanno mai toccato un cazzo a me, la verità, soltanto non mi hanno mai toccato niente, sono salito sopra, quando gli ho detto no, non sanno così le cose, gli ho detto. E lei dice cosa ci fa qua? Abito qua, gli ho detto. E c'è il 680. E mi hai visto il 680 sequestrato tu dall'escopo? Penso di no. E quindi, a un certo punto. Perché sapevo tutti, tutto quanto, le leggi, eccetera, eccetera, e le cose che c'erano da fare. Adesso vabbè, mi sono dimenticato quello che è. Però se tu vai nel sito del FER, a un certo punto c'è tutto, c'è. Ti prendi la documentazione, la mandi alla, come si chiama, al tribunale, a quello che cavolo se questa roba, ma te lo devo indietro. Se tu in pratica ti prendi dentro una busta la roba tua e te la tieni 6-7 mesi con quello che sono, dopodiché metti tutto e la riutilizzi. Hai capito? Tutto lì. Ti sarai pagato la multa, penso di sì. A un certo punto, quindi, se te l'avevo tutto, il discorso è quello. Però lì da Mario non farebbe veramente la pena, perché insomma fa roba di nuovo, cazzo, anche se ha speso 200 euro di avvocato, però cazzo il valore c'era della roba, ma fa parte di 50 euro che si la dronchi in culo. Guarda che Mario non è che c'aveva così tutta questa roba qui, mi la verità. Gli apparecchi normali, non c'era nient'altro, hai capito? Il discorso è quello. Il tubo c'avevo io, c'avevo soltanto a casa sua, mi sono venuti a casa sua c'ero io, ma non ho visto a me, se ne sono fuggiti, hai capito il discorso? Sento cosa volete? Dovevo fare la perquisizione, e dove gli ho detto? Secondo te gli ho detto, dove lo vuoi fare? E qui ci abito io, gli ho detto, ma tu non abitavi in no, io abito qua, gli ho detto, quindi gli ho detto cosa vuoi fare? No, no, no, non c'è stato. Mi ha detto, meglio per te, gli ho detto, guarda. Ma tanto faccio mai con te, il discorso è quello. Mi ha dato il decreto, mi ha messo il foglio là fuori, questo decreto. Ministeriale, però se tu vai nel sito del SER, c'è c'è in pratica la, tutti i fogli in, in